Ad alta voce. Elia Shilton legge Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque. Siamo in otto nella nostra camera. Il ferito più grave è Peta, un bruno riccioluto, fucilata al polmone con complicazioni. Franz Wächter, accanto a lui, ha un braccio fracassato che in principio non pareva così grave, ma nella terza notte ci chiama pregandoci di suonare perché gli sembra che la ferita perda sangue. Io suono con energia, ma la suora di guardia non viene. Bisogna dire che nella serata l'abbiamo fatta lavorare molto, perché eravamo tutti medicati di fresco e perciò soffrivamo più del solito. Uno voleva che la sua gamba fosse messa in un modo, l'altro in un altro, il terzo chiedeva da bere, il quarto che gli accomodasse i cuscini. La vecchiotta ha finito col perdere la pazienza e con lo sbattere gli usci. Forse ora teme che si ricominci e perciò non viene. Aspettiamo un po', poi Franz dice: «Suona ancora!» Eseguisco, ma quella non si lascia vedere. Nella nostra ala di notte c'è una suora sola di guardia. Forse è occupata in altre camere. «Sei sicuro, Franz, che fa sangue?» domando io. «Altrimenti son guai che ci tiriamo addosso. Sento umido. Non c'è nessuno qui che possa far luce.» Anche questo è impossibile. Il commutatore è vicino alla porta e nessuno di noi è in grado di alzarsi. Premo il bottone del campanello finché il dito mi si intorpidisce. Può anche darsi che la suora si sia appisolata. Hanno tanto lavoro e sono esaurite già prima di sera, povere donne. E per di più quel continuo pregare. «Dobbiamo scaraventare un'altra bottiglia?» domanda Josef Hamacher, quello del permesso di caccia. «Ma che, la sentirebbe ancor meno dei campanelli.» Finalmente si apre la porta e compare la vecchia arcigna. Ma quando vede il braccio di Franz, diventa sollecita e grida: «Ma perché nessuno ha detto niente? Abbiamo suonato tanto, nessuno qui può alzarsi.» Franz ha perduto molto sangue e viene bendato a nuovo. La mattina vediamo la sua faccia, che si è fatta più sottile e più gialla, mentre era quasi florida la sera innanzi. Da allora la suora viene più spesso. Qualche volta vengono anche le infermiere ausiliarie della Croce Rossa. Sono tanto buone, ma talvolta un po' inesperte. Nel trasportare un ferito da un letto all'altro fanno sentir dolore e allora si spaventano al punto da far dolorare ancor più. Le suore ispirano maggior fiducia. Sanno come devono prendere un ferito, soltanto si vorrebbe vederle un po' più allegre. Qualcuna sì è d'umor faceto ed è grande. Chi non farebbe qualsiasi cosa per suor Libertine, per questa meravigliosa suora che in tutta la nostra ala d'ospedale solleva i cuori appena compare di lontano? E più d'una è così. Per loro si andrebbe nel fuoco. Davvero non ci si può lamentare. Si è trattati come borghesi da queste suore. Quando si pensa in paragone agli ospedali presidiari, c'è da rabbrividire. Franz Wächter non riprende le forze. Un giorno lo portano fuori e non ritorna. Josef Hamacher, quello che la sa lunga, dice subito: «Non lo vediamo più, lo hanno portato nella stanza dei morti.» «Quale stanza dei morti?» domanda Krop. «Sì, la stanza dove si muore. Ma che diamine è?» «È una stanza piccola presso l'angolo di quest'ala. Quando uno è sul punto di tirar l'ultimo fiato, lo portano di là. Vi sono due letti. In tutto l'ospedale lo chiamano la stanza dei morti. Ma perché li portano là? Per aver meno lavoro dopo. Ed è anche più comodo perché è vicino all'ascensore che mena alla cripta dei cadaveri. Forse lo fanno anche affinché nessuno muoia nelle camerate per via degli altri. E poi si può vegliar meglio il moribondo quando è solo. Ma e lui?» Josef alza le spalle. «Generalmente non se ne accorge. Ma lo sanno tutti. Chi è qui da qualche tempo, naturalmente, lo sa. Nel pomeriggio il letto di Franz Wächter è occupato da un altro, ma dopo un paio di giorni portano via anche questo. Josef fa un gesto significativo con la mano. Altri ne vediamo andare e venire. Spesso accanto ai letti stanno dei parenti che piangono oppure parlano piano, imbarazzati. C'è una vecchietta che non se ne vuole andare, eppure non è permesso passare qui la notte. Ritorna la mattina dopo prestissimo, ma non presto abbastanza, perché avvicinandosi al letto lo trova già occupato da un altro. La poveretta deve andare alla cripta. Le mele che aveva portate con sé le dà a noi. Anche il piccolo Peter peggiora. La sua tabella della temperatura è brutta e un giorno il carrello piatto si ferma accanto al suo letto. «Dove mi portate?» domanda. «Alla sala di medicazione». Lo mettono sul lettino, ma la suora commette l'errore di staccare la sua giubba dal gancio e di deporla sul lettino stesso per non far la strada due volte. Peter capisce subito e vuol gettarsi giù dal carrello. «Voglio restare qui». Lo tengono fermo ed egli grida a bassa voce col suo polmone lacerato: «Non voglio andare nella stanza dei morti». «Ma se andiamo alla sala di medicazione, e allora che bisogno avete della mia giubba?» Non ha più voce. Rauco, inquieto, bisbiglia: «Restare qui». Non gli rispondono e lo portano fuori. Giunto alla porta fa uno sforzo per drizzarsi. La sua testa ricciuta sussulta, gli occhi sono pieni di lacrime. «Ritornerò! Ritornerò!» grida. La porta si chiude. Siamo tutti commossi, ma tacciamo. Finalmente Josef dice: «Lo dicono in molti, ma quando si è là dentro non si dura». Mi hanno operato e vomito due giorni di seguito. Le mie ossa non vogliono saldarsi, dice lo scritturale del medico. Ad un altro invece si sono saldate male e gliele devono spezzare di nuovo. È una miseria. Fra i nuovi arrivati ci sono due reclute coi piedi piatti. Alla visita il medico capo li scopre e si ferma tutto contento. «Rimedieremo subito», dice. «Una piccola operazione e i vostri piedi staranno benissimo. Prenda nota, suora». Quando se n'è andato, Josef, che sa tutto, ammonisce: «Attenti, ragazzi, non lasciatevi operare. È una fissazione scientifica del vecchio. Diventa matto di gioia quando riesce a beccarne uno. Vi opera i piedi piatti, e i piedi piatti non ci sono più, ma avete in compenso i piedi storpi e vita natural durante vi tocca camminare col bastone». «Come dobbiamo fare?» domanda uno. «Rifiutarsi, per Dio! Voi siete qui per curare le vostre ferite e non per i piedi piatti. Non li avevate forse in trincea? E dunque, vedete! Adesso potete ancora camminare. Ma se il vecchio riesce ad avervi sotto i suoi ferri, siete dei poveri storpi. Ha bisogno di soggetti per i suoi esperimenti. Per lui la guerra è un'occasione magnifica, come per tutti i medici. Guardate un po' giù al deposito di convalescenza. Ci sono una dozzina di individui che ha operato. Alcuni sono qui da anni, fino dal 14 e dal 15. Non ce n'è uno che cammini meglio di prima. Quasi tutti stanno peggio. La maggior parte ha ancora le gambe ingessate. Ogni 6 mesi li acchiappa di nuovo e spezza loro un'altra volta le ossa. E ogni volta il successo, dice lui, è sicuro. State in guardia. Non può farvi nulla se voi vi rifiutate». «Ah, caro mio», replica stanco uno dei due, «meglio i piedi che la testa. Sai tu quello che ti aspetta se ti rimandano in linea? Facciano un po' quello che vogliono purché io torni a casa. Meglio storpio che morto». L'altro, invece, un giovanotto del nostro campo, non vuole. La mattina appresso il medico capo fa chiamar giù tutti e due e li imbonisce e li strapazza tanto che finiscono con l'acconsentire. Che altro debbono fare? Sono poveri fanti e lui è un pezzo grosso. Ce li riportano ingessati e ubriachi di cloroformio. Albert sta male. Lo portano via e lo operano. La gamba viene amputata fin sulla coscia. Non parla quasi più. Solo una volta dice che vuole spararsi se appena gli riesce di mettere la mano sulla sua rivoltella. Arriva un nuovo convoglio di feriti. Nella nostra camerata entrano due ciechi. Uno è un musicista, giovanissimo. Le suore non hanno mai con sé il coltello quando gli danno da mangiare, perché già una volta lo ha strappato loro di mano. Nonostante questa precauzione, si verifica un incidente. Una sera, durante il pasto, la suora viene chiamata via e per il momento depone sul tavolino accanto a lui il piatto con la forchetta. Egli trova a tastoni la forchetta, se l'avventa a tutta forza contro il cuore, poi prende una scarpa e picchia sul manico quanto più può. Gridiamo aiuto, tre uomini appena bastano a strappargli la forchetta, i cui denti ottusi erano già penetrati nella carne. Tutta la notte inveisce contro di noi, tanto che nessuno riesce a prender sonno. Al mattino lo assale una crisi di pianto. Altri letti si svuotano. I giorni passano fra sofferenze ed ansie, fra gemiti e rantoli. La camera dei morti non basta più. Alcuni muoiono di notte anche nella nostra camerata. La morte cammina più spedita che non la preveggenza delle suore. Ma un bel giorno la porta si apre di colpo, entra il carrello e chi vediamo sul lettino, pallido, esile, ma dritto e trionfante? Peter, con tutti i suoi riccioli bruni e scarmigliati. Suor Libertine, raggiante, lo spinge verso il suo antico letto. È ritornato indietro dalla camera dove si muore. Noi l'avevamo creduto morto da un pezzo. Si guarda intorno. Che ne dite? E anche Josef deve riconoscere che un fatto simile non l'aveva visto mai. A poco, alcuni di noi hanno il permesso di alzarsi. Anch'io ricevo un paio di stampelle per saltellare qua e là, ma ne faccio poco uso. Non posso sopportare lo sguardo di Albert quando attraverso la camera mi segue sempre con due occhi così strani. Perciò qualche volta scappo nel corridoio, ove mi posso muovere più liberamente. Al piano inferiore sono i feriti al ventre, alla spina dorsale, alla testa e gli amputati delle due gambe. Nell'ala destra i feriti alle mascelle, gli avvelenati dai gas, i colpiti al naso, alle orecchie, al collo. Nell'ala sinistra i ciechi, i feriti ai polmoni, al bacino, alle articolazioni, alle reni, ai genitali, allo stomaco. Bisogna venire qui per vedere in quante parti un uomo può essere ferito. Due muoiono di tetano. La pelle diventa livida, le membra si irrigidiscono, ultimi vivono e a lungo gli occhi. Alcuni tengono l'arto ferito sospeso a una carrucola esposto in aria. Sotto la piaga è posto un bacile in cui cola a goccia il pus. Il bacile viene vuotato ogni 2 o 3 ore. Altri hanno un apparecchio di trazione fissato al letto con grossi pesi. Vedo delle ferite di intestino che sono sempre piene di lordura. Lo scritturale del medico mi mostra delle radiografie in cui si vedono ginocchi, anche spalle completamente fracassate. Non si può comprendere come sopra corpi così orribilmente lacerati siano ancora volti umani sui quali la vita continua nel suo ritmo giornaliero. E pensare che questo è un ospedale solo. E ve ne sono centinaia, migliaia uguali in Germania, in Francia, in Russia. Come appare assurdo tutto quanto è stato in ogni tempo scritto, fatto e pensato, se una cosa simile è ancora possibile. Deve essere tutto menzognero e inconsistente se migliaia d'anni di civiltà non sono nemmeno riusciti ad impedire che questi fiumi di sangue scorrano, che queste prigioni di tortura esistano a migliaia. Soltanto l'ospedale mostra che cosa è la guerra. Io sono giovane, ho 20 anni, ma della vita non conosco altro che la disperazione, la morte, il terrore e la insensata superficialità congiunta con un abisso di sofferenze. Io vedo dei popoli spinti l'uno contro l'altro e che senza una parola, inconsciamente, stupidamente, in una incolpevole obbedienza, si uccidono a vicenda. Io vedo i più acuti intelletti del mondo inventare armi e parole perché tutto questo si perfezioni e duri più a lungo. E con me lo vedono tutti gli altri uomini della mia età, da questa parte e da quell'altra del fronte. In tutto il mondo lo vede e lo vive la mia generazione. Che faranno i nostri padri quando un giorno sorgeremo e andremo davanti a loro a chieder conto? Che aspettano essi da noi quando verrà il tempo in cui non vi sarà la guerra? Per anni e anni la nostra occupazione è stata di uccidere, è stata la nostra prima professione nella vita. Il nostro sapere della vita si limita alla morte. Che accadrà dopo? Che sarà di noi? Il più vecchio della nostra camerata è Lewandowski. Ha 40 anni e già da 10 mesi è all'ospedale con una grave ferita al ventre. Solo in queste ultime settimane ha potuto finalmente muovere qualche passo, tutto curvo e zoppicante. Da alcuni giorni è in grande agitazione. Sua moglie gli ha scritto dal paesello polacco dove abita di aver messo insieme denaro sufficiente per pagare il viaggio e venirlo a trovare. È già in cammino, dunque, e può giungere da un giorno all'altro. Lewandowski non gusta più il cibo, regala via persino la salsiccia coi cavoli dopo 2 bocconi. Non fa che girare per la stanza con la lettera in mano. Ciascuno di noi l'ha letta almeno una dozzina di volte. I timbri sono stati verificati ripetutamente. La scrittura è appena riconoscibile tra macchie d'unto e impronte digitali. E accade finalmente quel che doveva accadere. Il pover'uomo ha la febbre e deve mettersi a letto. 2 anni che non la vede sua moglie e nel frattempo è nato un figlio che essa porta con sé. Ma ciò che preoccupa Lewandowski è ben altro. Aveva sperato di ottenere un permesso d'uscita per quando giungesse la sua vecchia, perché è chiaro, vedersi è un gran bel fatto. Ma quando dopo tanto tempo ci si ritrova con la moglie, si vorrebbe, se possibile, anche qualche altra cosa. Lewandowski ha discusso di tutto ciò per ore e ore con noi, perché tra soldati non ci sono segreti e del resto nessuno trova da ridire. Quelli di noi che possono uscire gli hanno fatto saper certi angoli più che adatti della città nei viali e nei giardini dove sarebbe indisturbato. Uno gli ha persino indicato una cameretta. Ma a che giova tutto ciò se Lewandowski deve stare a letto? Il brav'uomo è pieno di fastidi. La vita intera non gli sorride più se deve rinunciare a questo. Noi lo consoliamo assicurandolo che troveremo il modo di risolvere la cosa. Nel pomeriggio seguente compare la moglie, una donnetta piccola, raggrinzita, con gli occhi spauriti e mobilissimi come un uccellino, avvolta in una specie di mantiglia nera a sbuffi e a nastri che domeni Dio sa da chi l'abbia ereditata. Mormora piano qualcosa e si ferma intimidita sulla soglia. Vedere lì 6 uomini riuniti le fa impressione. «Ebbene, Maria», dice Lewandowski, mentre manda giù la saliva e il pomo d'Adamo gli sussulta, «Vieni pure avanti, non ti faranno niente!» Allora essa fa il giro e dà la mano ad ognuno. Poi ci mostra il pupo che nel frattempo ha sporcato le sue fasce. Essa ha con sé una gran borsa ricamata a perline e ne tira fuori un pannolino pulito col quale avvolge alla svelta il marmocchio. Così ha superato il primo imbarazzo e i due cominciano a discorrere. Lewandowski è agitato e ad ogni momento volge su di noi i suoi occhi tondi e sporgenti con un'espressione di grande infelicità. Il momento è propizio. La visita medica è passata. Tutto al più potrebbe venire una suora a dare un'occhiata. Uno di noi esce un momento in esplorazione, rientra e fa cenno. Neppure un gatto in vista. Diglielo, Johan, e finiamola. I due continuano a intrattenersi nella loro lingua. La donna alza gli occhi, un po' rossa e imbarazzata. Noi sorridiamo benevolmente, facciamo qualche gesto di noncuranza. Che male c'è, infine? Al diavolo i pregiudizi, sono buoni per altri tempi. Ecco qua il falegname Johan Lewandowski, un soldato ferito, invalido per tutta la vita, ed ecco qua sua moglie. Chissà quando la rivedrà, vuole averla, deve averla e stop. Due uomini si mettono di fazione alla porta per fermare al varco le suore e tenerle occupate se per caso passassero da queste parti. Monteranno la guardia per un quarto d'ora. Lewandowski non può star coricato che sul fianco, perciò ognuno gli mette un paio di cuscini dietro la schiena. Albert tiene il pupo, noi ci voltiamo dall'altra parte, la mantiglia nera scompare sotto le coltri e intanto attacchiamo una partita, parlando a voce alta di ogni sorta di cose. Tutto va bene. C'è un certo asso che passa di mano in mano e quasi ci fa dimenticare Lewandowski. Dopo qualche tempo il pupo comincia a frignare, quantunque Albert lo vada disperatamente cullando in qua e in là. Poi sentiamo qualche fruscio e cigolio e quando alziamo gli occhi vediamo che ha già in bocca il poppatoio ed è tornato con la mamma. Siamo in porto. Ci sentiamo ormai una grande famiglia. La donnetta è piena di animazione. Lewandowski se ne sta disteso, sudato e raggiante. Egli apre la borsa ricamata e vengono alla luce alcune buone salsicce. Lewandowski prende in mano il coltello come fosse un mazzolin di fiori e trincia la carne a pezzi. Con largo gesto indicano gli altri e la piccola donna raggrinzita passa da questo a quello e ci sorride e ci distribuisce la salsiccia con una grazia che la rende quasi bella. La chiamiamo mammetta ed essa è tutta contenta e ci accomoda i guanciali. Dopo alcune settimane mi tocca andare tutte le mattine all'istituto ortopedico, ove la mia gamba viene legata ad un apparecchio ed esercitata a muoversi, quanto al braccio, è guarito da un pezzo. Nuovi convogli giungono dal fronte, i bendaggi non sono più di tela, ma di carta velina bianca, c'è penuria di tessuto. Il moncone di Albert guarisce bene, la ferita è quasi chiusa, fra qualche settimana andrà in un istituto di protesi. Ancora egli parla poco ed è molto più serio di prima. Spesso nel mezzo di un discorso si interrompe e guarda fisso dinanzi a sé. Se non fosse stato in nostra compagnia, da un pezzo l'avrebbe fatta finita. Ma ora ha sorpassato il momento peggiore. Spesso assiste alla partita quando giochiamo a carte. Mi danno la licenza di convalescenza. Mia madre non vuole più lasciarmi ripartire, è tanto debole ormai. Tutto è ancora più triste dell'ultima volta. Finalmente sono richiesto dal mio reggimento e riparto per il fronte. La separazione del mio amico Albert Krop è dolorosa. Ma a che cosa non ci si avvezza col tempo sotto le armi?